No, dai. Forse verrà ancora qualcuno. Forse arriva qualcuno. Sì. Ma non è importante. Ma sì, tanto siamo fra di noi. Che bello c'è della trasmissione di un libro in un anfiteatro vuoto. Bene, io intanto vi do il benvenuto a nome della biblioteca, vi ringrazio per essere venuti. Per quelli che non ci conoscono, anche se più o meno mi sembra che... Volevo invitare tutti ad iscriversi, chi ancora non l'avesse fatto, comunque la biblioteca mette a disposizione un patrimonio di 25.000 libri che dovrebbero uscire in prestito, quindi potete iscrivervi, l'iscrizione è gratuita, quindi siamo contenti insomma, se aumentiamo anche i nostri utenti. Vi porto i saluti dell'assessore, vi ricordo i prossimi appuntamenti, ogni lunedì noi facciamo degli appuntamenti qui in questa sede, che è la nostra sede provvisoria in vista dell'entrata nella sede definitiva che sarà il polo bibliotecario. Le iniziative previste per i prossimi lunedì sono l'insocievole socialità per il 10 marzo, la presentazione del libro curato da Lorenzo Toresini, e il 17 marzo l'amaro caso di Rai Mazzarino di Paolo Cresi Carnevale. Ora lascio la parola al professor Galasso che ci presenta il libro del signor Giacomuzzi. Allora, grazie. Allora, saluto tutti. Scusate se la voce non è molto convincente, ma purtroppo. Ecco, diciamo che oggi presentiamo un romanzo che è storico e autobiografico, poi cercherò di chiarire un po' le modalità di questo. Diciamo che oggi ci sono tre tipologie fondamentali di romanzo storico. Voi sapete che il romanzo storico classico è quello di Victor Hugo in Francia, più che altro, e a me preme dirlo anche di Alexandre Dumas, con tutte le Dumas père soprattutto, con tutte le pecche che può avere, è un grandissimo, giustamente adesso l'Académie lo ha riscoperto e è tornato sugli allori accademici diciamo c'è una riscoperta di tutto. Soprattutto Victor Hugo, poi vabbè, ci sono esempi anche naturalmente in Germania dove però prevaleva un romanticismo fantastico. Ci sono esempi in Inghilterra parzialmente con il grandissimo Charles Dickens, ma è soprattutto Victor Hugo il grande romanziere storico dell'Ottocento, e voi sapete che lì il romanzo storico era fondato da un lato sull'afflato epico ed etico, se volete anche etico-sociale, da un lato, e dall'altro su una rigida e rigorosa documentazione storica. Pensate che per scrivere I Miserabili, Hugo impiegò tante settimane in biblioteca studiando tra l'altro anche le fognature di Parigi. Se qualcuno si ricorda, c'è un capitolo intero su questo, no? Ecco, quindi diciamo questo era un approccio al romanzo storico, sottolineo era. Nel Novecento abbiamo esempi come questo, e è un libro che consiglio, anche se insomma è un po' di parte, poi non dirò perché non c'entra la politica, ma c'entrano altre cose. Eric Giacometti, o Giacometti se all'italiana, Jacques Ravin, che è uno pseudonimo, Le Rituel de l'Ombre, che vuol dire, come capite, il rituale dell'ombra. Questo è un libro, diciamo, storico, esoterico, fondato su moltissimi documenti, non più come all'epoca di Victor Hugo, ma incuneato, imperniato, diciamo, su una vicenda thriller. Difatti il sottotitolo non è del tutto vero, è thriller, se poi lo leggete, non so, chi di voi ama il thriller? Io non particolarmente, mi escludo, ma non so, se qualcuno lo ama sarà un po' deluso, perché magari non funziona tutto come Detection, sì, funziona abbastanza, però era meglio Conan Doyle, Sherlock Holmes, era meglio Agatha Christie, erano meglio, adesso io poi non sono un grande esperto, ma insomma tutti gli autori, Ellery Queen, eccetera, tutto quello che segue. E, è quindi un libro fondato su documenti, ma incuneato, dicevo, in una questione di fantapolitica, se volete, o meglio di fantaeconomia, con molti richiami storici. C'è per esempio il nazismo, e ne parlo pour cause, perché presentiamo un libro che parla dell'ultima guerra, no? Ora, e c'è in questo libro dei due autori, una cosa interessante, perché in genere le cose scritte in coppia sono sempre un po' pericolose, no? Perché, ma se la, diciamo, se la coppia funziona, come in questo caso, può essere interessante. C'è una vicenda anche vagamente di love story, diciamo, una storia d'amore un po' sottesa, che per esempio in Giacomuzzi non c'è, o meglio viene solo adombrata. Poi c'è un altro tipo di scrittura storica, e questo lo consiglio anche a fortiori, cioè più dell'altro, Manuel Rivas, che è il lapis del carpintero, cioè il lapis, la matita del carpentiere, però l'originale è in gagego, è in galiziano, che voi sapete è una specie di trade union tra il portoghese e lo spagnolo, e l'originale è o lapis do carpinteiro. Il mio portoghese, scusate, è pessimo, quindi non mi scuso. Ecco, in questo caso invece abbiamo un libro lirico, un libro di, diciamo pure, prosa poetica, dove però alcune esperienze forti della realtà galiziana, della realtà spagnola, ma della realtà europea, perché voi sapete che la guerra civile spagnola è stata la preparazione storicamente, abbiamo alcuni professori, esimi professori di storia anche presenti, è stata la fucina della guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, e quindi con tutto il dolore, con tutto veramente la scrittura anche nel sangue, purtroppo, che la guerra ha comportato, no? E che in particolare la seconda guerra mondiale ha comportato, per i motivi che tutti noi sappiamo: la diffusione della tecnologia bellica, che nella prima guerra mondiale è ancora molto inferiore, e non solo, no? Per tutti i motivi, perché la seconda è veramente una guerra mondiale, in quanto voi sapete che coinvolge tutto il mondo, dagli Stati Uniti, seppure non direttamente attaccati solo a Pearl Harbor, che era fuori, diciamo, extra moenia, però fino al Giappone e tutto quello che sappiamo, no? Anche l'Asia ha subito le sue distruzioni nella Seconda Guerra Mondiale. Poi c'è una terza modalità, che è quella del nostro amico, posso dirlo ormai, Gianfranco Giacomuzzi, che è appunto la modalità autobiografica. Attenzione però, chi scrive un romanzo, e questo è un romanzo, deve scrivere un qualcosa che abbia un'evoluzione narrativa, cioè dove ci sia un prima, un durante e un dopo. Magari anche, non è il caso di Giacomuzzi, non nello stesso ordine, gli scrittori del cosiddetto nouveau roman francese, per esempio, o la Neue Sachlichkeit tedesca, scrivevano mettendo prima il futuro, poi quello che era successo chissà quanto tempo prima, poi il presente come vaga intersezione di piani. Se qualcuno di voi ha provato a leggere appunto Alain Robbe Grillet, che è morto 2 settimane e mezzo fa, o Luthor o la Sarotte, trova tutto questo, anche Marguerite Duras in parte, anche se non è proprio questo. Ecco, una modalità autobiografica. Oggi si riscopre intelligentemente e secondo me talora anche forse un po' troppo l'autobiografia. Segnalo, ho portato questo volumone, prima persona, cui però probabilmente nessuno di voi può aderire, perché bisogna non essere scrittori, bisogna non essere professori intellettuali, loro vogliono materiale un po' grezzo, difatti insomma anche un'attrice, per esempio, che qui scrive delle cose che sono per noi magari un attimo più appunto rozze o grezze, qui poi ci sarebbe molto da ridire. Si chiama Archivio Diaristico Nazionale, ha sede a Pieve Santo Stefano, provincia d'Arezzo, e Anghiari, sono praticamente una conurbazione, due comuni, e il fondatore è Saverio Tutino, giornalista, storico, eccetera. Ecco, e l'attuale gestore e direttore è un pedagogista e filosofo dell'educazione che è stato anche ospite di questa biblioteca, Duccio Demetrio, non so se qualcuno l'ha visto o sentito, no? È stato ospite qui e anche altrove a Bolzano, ora non so esattamente, ma comunque. Oppure Philippe Lejeune, ecco, in Francia, che ha dato, come storico, ha dato un grosso impulso a questi lavori. Un romanzo è altra cosa, perché un romanzo evidentemente presuppone che si parta dalle proprie esperienze, ma che in qualche modo le si trasformi anche in altro, creando evidentemente dei personaggi che non sono solo i personaggi del nostro entourage immediato. Se noi scriviamo dei romanzi, per esempio, solo familiari oggi, questo era possibile fino all'epoca di Balzac, parlavamo prima con Gianfranco di Dostoevsky, ecco, all'epoca era possibile. A parte che neanche loro si restringevano al solo ambito familiare, ma se lo si fa si corre il rischio di fare quello che successe 3 lustri fa, mi sembra un po' meno, a una scrittrice scomparsa, bolzanina, che però viveva da anni in Spagna, so perché era compagna di scuola di mia mamma, ne parlavamo con Alba tempo fa, Amanda Kneri, che è scomparsa, ottima scrittrice, però aveva scritto questo Mia madre, una donna, che era un libro che io mi ricordo ebbi così... le reprimende dell'Amanda furiosa, scusate la battuta, in quel caso, perché avevo scritto: non è un romanzo, è un trattato di psicologia, cioè non vendeteci dei trattati di psicologia familiare, di sociologia al limite della famiglia, spacciandoceli per romanzi. Ed è strano, perché la professoressa Knierin, che aveva scritto delle cose ottime e prima e dopo, quindi diciamo, era stato un po' uno scivolone dettato forse dal livore personale. In questo caso invece con Giacomuzzi abbiamo una scrittura estremamente piana, estremamente comprensibile, estremamente leggibile, cosa che non è da poco. Prima ho citato il Nouveau Roman, che peraltro a me piace, ma per leggere Robe Grier bisogna sapere un po' di semiologia, di semiotica, di strutturalismo e anche di Nouveau Roman, se no si rimane un attimo perplessi, quantomeno. Ecco, in questo caso abbiamo una scrittura che ci dà appunto un'evoluzione narrativa piana, cioè a dire c'è veramente un prima, un prima e un dopo, diciamo, no? Sempre che il presente non sia agostinianamente, no? Con Sant'Agostino di Ippona, una freccia che va dal passato al futuro, no? Voi sapete, no? La teoria, oppure quella bergsoniana per cui il presente sostanzialmente è solo una durata percepita dal soggetto. Ecco, tutto questo in questo romanzo il sergente Bubi, che parla di una realtà vicina, sono i monti del Trentino, il lago di Molveno, ma diciamo anche tutta la zona circonvicina, verso gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, con dei personaggi che sono diversi dai soliti. Cioè, in genere noi abbiamo la rappresentazione così stereotipata da film o da romanzo, non Beppe Fenoglio, non le cose più elevate della letteratura, ma in certa letteratura corriva e storica e anche letteraria, propriamente diciamo letteraria, dove c'è diciamo il cliché del nazista cattivo, del nazista in genere delle SS, che è cattivo, deve essere cattivo, deve essere imperturbabile, tetragono a ogni affetto, a ogni diciamo emozione umana, e è tutto d'un blocco, tutto d'un pezzo, cioè tutto cattivo. Qui in Giacomuzzi invece ci mostra dei soldati, anche degli ufficiali che provenivano dall'esperienza tragica, voi sapete, dell'African Corps, che era stata una sconfitta totale del era uno dei gravi segnali, diciamo, della sconfitta dell'asse, diciamo, delle potenze dell'asse, e in particolare della Germania in questo caso. E voi sapete a questo proposito che Rommel, cosiddetta volpe del deserto, che appunto dell'African Corps è stato il più un po' l'eroe eponimo, era assolutamente critico verso il nazismo, verso le derive paranoiche di Adolf Hitler, no? Addirittura qualcuno ha ventilato l'ipotesi, pare che non sia vero, però, che in qualche modo Rommel sapesse dell'attentato a Hitler di von Stauffenberg e degli altri, no? Ecco, quindi ci dà una rappresentazione di soldati nazisti, tra virgolette, ma nazisti più per obbligo, diciamo, che per convinzione intima, per obbedienza, diciamo, che per e appunto per necessità più che per convinzione profonda, e ci dà anche dei tempi estremamente dilatati, cioè a dire le esperienze che in questo romanzo fa l'incursione diretta della guerra sono delle impressioni temperate. cioè gli attacchi aerei c'erano, però erano abbastanza lontani, non erano presenti, non erano quotidiani, non erano oppressivi, non erano... diciamo, la guerra rimaneva un po' al di fuori, per ovvi motivi anche di carattere strategico e tattico, che voi sapete, no? Le montagne sono sempre un qualcosa di imprendibile e di difficilmente attingibile. C'è un'osservazione che faceva lo stesso Führer, che ci dice qualcosa, no? Quando si trattò di la vexata questio della praticamente dell'appartenenza del Südtirol, Trentino Alto Adige, diciamo Südtirol Alto Adige, al mondo germanico o al mondo tedesco. Ecco, su questo Hitler liquidò la cosa dicendo a Mussolini: ma queste quattro montagne non vale la pena prenderle. Ecco, praticamente non c'era una grande attenzione, diciamo, al fatto che il Sudtirolo fosse stato italianizzato. Interessante è la descrizione del mondo familiare e del mondo dei bambini, in cui diciamo l'autore parzialmente, però ecco, in forma mediata, si trasfigura all'epoca, e il mondo degli adulti, cioè ci sono chiaramente due livelli dati ovviamente dalle diverse fasi evolutive della vita. Il bambino o il rimbambino, come chi vi parla, il puer a eternus, ha una, diciamo, ha un approccio sognante alla vita, invece chi è più realista vede appunto la realtà com'è, no? Tutti noi in qualche modo ci sbattiamo il muso contro la realtà, o con la realtà. C'è chi assorbe meno i colpi, non so come dire, siete d'accordo, no? Io faccio parte di questi che preferirebbero, diciamo meglio, il condizionale sognare, poi ci si trova ad avere a che fare coi duri colpi della vita, più o meno sempre in agguato. Ecco, l'ambiente familiare, che è un ambiente di villeggianti in una realtà di montagna, si diceva prima col professor Giacomuzzi, una realtà che all'epoca era molto meno turistica, molto meno invasa, diciamo, da infrastrutture turistiche. Dico invasa non in senso negativo, perché io rifiuti il turismo, non sono un fondamentalista, sarebbe credo assurdo oggi tornare a condizioni che i nostri padri, nonni non rimpiangono per nulla, quindi tornare indietro non ha alcun senso. Il problema invece è semmai una certa invasività turistica, no? Se voi oggi fate una capatina, come a qualcuno, forse a tutti voi capiterà di fare in località turistiche, spesso c'è da scappare, no? Pensate, ecco, faccio un esempio macroscopico, ormai non è vox communis, è cosa dimostrata. Dal 96-97 in poi la riviera adriatica romagnola, soprattutto romagnola, diciamo dalla parte più alta, da Cervia fino alla non Romagna, cioè alle Marche, fino ad Ancona, è in mano alla mafia russa. Questo purtroppo è una tragica realtà, e mi dicevano, io non frequento le località, queste località per scelta, ma mi dicevano fonti autorevoli, documentate, che c'erano delle signore russe, credo nel 2000 o nel 2001, che vantandosene dicevano: voi non lo sapete, noi abbiamo la mafia più grande del mondo. Insomma, dico, almeno vergognatevi, non, insomma, no? Cioè, io non so, ma, di quella italiana, sì, o di quella del narcotraffico brasiliano, colombiano, venezuelano, quello che sia, però voglio dire, insomma, vantarsi, anche quella cinese si difende, ma insomma, voglio dire, vantarsi di avere la mafia più grande del mondo non mi sembra proprio. Ecco. Qui nel romanzo di Giacomuzzi respiriamo un'aria, un'atmosfera anche diversa, di più forte moralità, di più forte eticità. Al di là di questo, appunto, ci sono altri personaggi che sono gli amici della famiglia e anche diciamo, gli ospiti, nel senso gli albergatori. E c'è anche la realtà, diciamo, del, appunto di questo, di questi reduci dall'African Corps, che sono tutt'altro che duri, tetragoni a ogni affetto, come dicevo, sono invece persone nel senso proprio del termine, e con le loro esperienze, con i loro sentimenti, eccetera. Fra l'altro, ecco, il protagonista adulto, non vorrei anticipare molto per non togliere quel po' di suspense che comunque c'è, dicevo, non è un thriller, anche forse per nostra fortuna, ma insomma qui dipende un po' dai gusti e dalle esperienze anche di studio letterario che ognuno di noi ha fatto. Ecco, c'è una descrizione per esempio della convivialità, ma poi ci sono dei picchi in cui il protagonista si mette, il protagonista adulto, appunto questo signor Bondi, si mette nei guai, e per esempio quando chiede un po' di più di benzina, non so se qualcuno abbia letto il libro, ai soldati e in particolare poi al sergente Buri, che è un po' il protagonista, il buono, ecco, non il bad boy, il cattivo ragazzo, ma il good boy, no, della situazione, l'eroe positivo. Ecco, e poi ci sono sì naturalmente dei contraltari, per esempio il tenente, che è più diciamo più oberato anche da impegni di carattere gerarchico e di carattere burocratico, per cui quando si scopre, diciamo, che l'uso della benzina è un pochino improprio, allora qualche ramanzina anche il nostro signor Bondi la passa. E in questo caso vorrei dire un altro aspetto che mi preme sottolineare anche per motivi personali, come probabilmente molti di voi sanno. C'è una cosa interessante nel libro, il trilinguismo: italiano, citazioni in tedesco e citazioni in trentino. E qui mi permetto, l'unico appunto che faccio a Gianfranco, di tirargli un attimo le orecchie. Il trentino si capisce, non si traduce. Mi scuso, ma non, voglio dire, insomma, tutti già, noi che in qualche modo... Sì, talora l'hai tradotto. Ah, questo, sì, no, insomma, perché è un dialetto venetico, non è un dialetto gallo-italico, professore, non mi supporti. Ecco, e... C'è del ladino dentro. E ci sono elementi ladini, però è assolutamente leggibile. Diciamo, e almeno insomma per chi ecco, sì, se si proponesse, questo è vero naturalmente, se si propone a Roma o anche a Firenze, poi non ne parliamo perché se non si parla fiorentino, ve lo dice chi sta anni a Firenze, ti guardano in cagnesco e ti guardano come un animale strano, però ecco, e per esempio, qui io mi permetto, anche se Giacomozzi non mi tarpa le ali, di fare un attimo il lettore, non perché io sappia leggere, ma perché per esempio qui c'è una scena, perché è una scena, proprio una scenetta, dove la domestica, la cameriera, come potremmo dire, la bonne, ecco, alla francese, ma dice, parla in trentino e serve, no? Ecco, sciori, i pol magnar canederli tutti un brodo, ai canederli l'el magnar pu bon. Questo invece è il dottore che per fortuna immedazzi un toc de spec, così l'ana, che è una brava coga, la può di farli. Ecco, per dire, no? E poi tutto un dialogo che è impregnato ed è imperniato, appunto, è impregnato di alternanza tra, in questo caso, trentino e italiano. Altrove c'è il tedesco che sicuramente talora, per l'uso che qui ne viene fatto, suona, diciamo, duro, militaresco, però poi in realtà si vede che la scorza di questi militari è una scorza profondamente buona, anche appunto perché erano stati i reietti, no? Quelli che dall'Africa erano tornati, scusate l'espressione, con le pive nel sacco, no? Con, diciamo, vabbè, mi veniva un'espressione francese irripetibile, ma appunto non ve la dico. Ecco, e veramente, diciamo, Giacomozzi è riuscito, evitando l'autobiografia, perché se no sarebbe finito appunto in queste cose, che peraltro vi raccomando, se non sento nulla, chissà cos'è, lettere, e altre cose. E comunque questo vi consiglio sicuramente di leggerlo. Rivas è tradotto anche in italiano, insomma, non so perché quando leggo nell'originale non guardo le traduzioni. Le Rituel de l'Ombre, temo di no, temo che arriverà in traduzione, ma forse non è ancora tradotto, il Rituale dell'Ombra, ecco questo. Se volete divertirvi ma anche informarvi, anche qui avrete delle sorprese carine, a parte che è un libro un po' tendenzioso, no? In senso, dicevo, non politico, ma esoterico. Qui invece, ecco, abbiamo parlato fin troppo, a che fare con una scrittura piana, già lo si diceva, sostanzialmente paratattica, che però conosce dei picchi, conosce delle epifanie, quindi anche in qualche modo degli addensamenti, diciamo, degli agglomerati, meglio, semantici di tipo poetico. Senza peraltro cadere nella prosa poetica, che in un romanzo non ci sta bene, ecco, la prosa poetica noi lo sappiamo anche da tutte le letture fatte, e lo sapete meglio di me, la prosa poetica è per i racconti, insomma, per quanto sta, diciamo, a cavallo tra il racconto, tra la narrazione e la poesia. Però, ecco, qui una scrittura piana, discorsiva, paratattica, quindi non vi troverete le enormi proposizioni subordinate in cui qualcuno cade. Qui purtroppo devo fare un mea culpa molto forte, perché scrivo cose interminabili nel senso delle subordinate, delle subordinate, delle subordinate, ma invece, ecco, la leggibilità qui qui è assicurata anche appunto dalla paratassi, dall'uso proprio e adeguato del discorso diretto, anche se giustamente non può mancare la narrazione, quindi anche quello che noi chiamiamo il discorso indiretto, no? Talora anche l'indiretto libero, no? Quando c'è quasi un coro in qualche modo narrante. Ecco, io con questo avrei concluso, volevo sottolineare questo aspetto appunto del multilinguismo che arricchisce sicuramente il libro e gli dà una veridicità particolare. Voi sapete che nella letteratura italiana, adesso chi è più bravo di me sicuramente ha altri esempi, ma uno scrittore che ha fatto un uso eccelso delle inserzioni in altre lingue e in, tra virgolette, dialetti, è stato Fogazzaro, sostanzialmente, Antonio Fogazzaro, grande scrittore morto all'inizio del Novecento. Ecco. Però, ecco, per esempio, anche chi per motivi linguistici e di provenienza, di collocazione geografica, anche peraltro grandissimo scrittore, intendo Italo Svevo, avrebbe potuto farne un uso che invece non ha fatto. Dice bene Monio Vadia, che condivide con Svevo e in piccola parte con me, nella mia pochezza, le radici ebraiche, diceva com'è la frase esattamente? Dice, non sapeva bene l'italiano, non sapeva bene il tedesco, non sapeva bene il triestino, però era un grandissimo scrittore, no? Questo è vero, però ecco, invece qui sottolineo, in Giacomuzzi c'è una ripresa appunto dei tre registri linguistici che poi appunto nel caso dell'uso del dialetto naturalmente si riferiscono a un fatto, cioè che diciamo nelle famiglie di condizione più umile, appunto la domestica per esempio, perché nel dottore, nel medico il replicare in dialetto è più quasi un vezzo, no? Invece nella domestica è l'unico modo di esprimersi, no? E dove voi capite c'era anche, adesso senza fare del sociologismo che peraltro non mi piace, c'è anche un uso intelligente, una diciamo comprensione intelligente, ma è una tautologia perché intelligere vuol dire comprendere, appunto della condizione sociale dell'epoca, che era anche di scolarizzazione molto minore. Vabbè, oggi diciamo la scolarizzazione anche a livelli accademici è crollata, no? Purtroppo insomma, non dobbiamo meravigliarci di nulla, ma ogni tanto si leggono e si sentono delle cose che fanno francamente accapponare la pelle, no? Del resto, se il modello maschile sono i footballeros, no? I calciatori, o il modello femminile sono le veline, scusatemi, mi ritiro dalla kermesse, insomma, no? Ecco, anche perché. Un applauso per il professore. Un applauso a voi per la pazienza nell'aver supportato. Volevo dire solo due parole. Io e il professore ha illustrato magnificamente il libro. Quello che manca nel romanzo, manca appunto una critica, no? Il romanzo è privo di critica, c'è solo una mia introduzione. Quindi quello che ha detto adesso il professore è meraviglioso, ha fatto la critica che mancava e che sì, e l'ha fatta in modo molto esaustivo e molto bello, e quindi facendo citazioni ad alto livello. E quello che posso dire io ormai è quasi inutile, cioè voglio dire che la questo di scrivere è sempre stata così una mia passione, una mia ambizione fin da quando ero ragazzo. Mi ricordo che quando ero ragazzo leggevo e cominciavo a leggere dapprima i libri di Biancaneve e Sette Nani, poi più avanti i libri un po' più impegnativi, Robinson Crusoe e così via, e fino a quando, però i Promessi Sposi li lessi già a 15 anni, per dire, no? Cose che magari era perché piacevano a me, perché magari un romanzo, per esempio, come i Promessi Sposi a scuola, ai ragazzi i professori lo facevano un po' pesare, e quindi era un mio poi vero divertimento poi andare a vedere cosa che gusto ci si trova a leggere una storia e così, no? E quindi era più divertente fare le cose per sé. Insomma, questo però era un fatto mio, a me è sempre piaciuto, no? Le storie, si leggevano a suo tempo i romanzi di Seigerin, per esempio, si leggevano con gran passione, e più avanti, diventando più grandi, anche i romanzi, i nuovi romanzi della letteratura americana, dopo la sconfitta nostra e la vittoria degli alleati, si capisce, subentrò tutta una letteratura che era giustificativa per di loro, insomma, i vincitori hanno sempre ragione, no? E quindi ci hanno anche molto indottrinato, è un tipo di cosa, l'americanismo è un genere di cosa che in Italia ha preso molto piede e ci indottrinarono molto, e è durato, anche perché poi gli italiani così sono un po' di per sé, è un po' rispetto alle altre nazioni europee, sono abbastanza italo, sono filoamericani, sono italiani un po' da sempre. Filoamericani, perché ne abbiamo avuto le immigrazioni in America dai tempi del tempo. In ogni modo, per passare insomma, a me stesso, io dicevo, mi sono sempre detto, ma è come poi diventando più grande avanti e avanti, come si potrebbe fare a scrivere un romanzo? Mi ero proposto, ma io un libro nella vita lo devo scrivere, né? Almeno uno, né? E quindi mi sono detto, come si fa a scrivere un romanzo, no? Quindi, allora lì sono partito da un fatto. Io quello che scrivo sempre lo so già prima, il racconto che intendo scrivere lo so dal principio alla fine, né? E quindi anche mi è capitato nel caso di questo romanzo, quando si scrive qualcosa in verità bisogna riferirsi alla realtà, non a stare a inventare. L'invenzione si mette tra le righe dopo, né? Le cose esistono già in natura, non c'è bisogno di inventare niente a questo mondo, esiste qua, tutto presente. Lo dicevano grandi pittori come Van Gogh, cosa vai a studiare pittura? Va fuori che la vedi la natura, no? C'è, è presente. Van Gogh faceva così, tutto quello che ha fatto lo faceva fuori, non in casa, né? E ha creato opere che neanche parlare. Allora così anche in letteratura ci sono i racconti, ci sono un sacco di cose che noi nel corso della vita impariamo, vicende varie, episodiche anche, tutto quello che si vuole, né? E si può quindi descrivere, né? Non si tratta di proiettare il vissuto e sulla carta e quindi trasformarlo, trasfigurarlo in forma letteraria, in scrittura, né? Non è che sia facile ovviamente, no? Ma quando la storia c'è è già un gran passo avanti. Quando dice, qui io ogni volta vivo una vicenda, e ancora oggi, e poi mi dico, guarda che bello, c'è la materia per fare un racconto. Ma mi capita spessissimo. E manca solo il tempo di farlo, perché cioè, ci vuole tempo e pazienza, ma ne saprei di scrivere all'infinito. No? Allora però ci vuole anche un sistema, no? Quindi, le prime volte ebbi difficoltà, per esempio, nella scelta delle parole, per esempio, perché non sempre è facile scegliere la parola giusta quando si scrive una frase, quando si scrive un periodo. Un verbo certe volte non va detto in quella maniera per descrivere una certa situazione, né? Quindi è un lavoro anche, diciamo, di carattere filologico, perché bisogna andare a cercare della parola giusta senza essere troppo difficile. Quindi il lavoro diventa filologico, appunto, no? E so, questa è una cosa che anche mi ha accompagnato per sempre nella vita. Fin da quando ero ragazzo, mi ricordo che prendevo il vocabolario e guardavo il vocabolo. Cosa vuol dire? Leggevo i vocaboli. Poi noi ne abbiamo imparati tanti nel corso delle varie letture che poi si usavano, si usano queste parole, no? Senza magari, perché sappiamo dove collocarle nell'ambito del discorso, senza magari neanche sapere benissimo che cosa voglia dire, bisogna andare sul vocabolario. Se mi avessero chiesto fammi una definizione di questo vocabolo, non sapevo neanche farla lì al momento, no? Perché bisognava cercare la definizione, perché ogni parola ha una sua definizione, si può spiegarla. Quindi lavoro filologico, lavoro di ricerca. Beh, allora poi naturalmente qui è nel caso specifico del racconto, no? Sono arrivato a questo racconto che è una storia vissuta, che è una storia vissuta tanti anni fa ed è ridotta ad episodio, perché appunto non era la mia intenzione di scrivere un romanzo storico, sì, il romanzo è storico, ma non un romanzo di storia, solo una vicenda vera, vissuta veramente, nell'ambito di un periodo storico. E ho scelto appunto quello lì perché fu il risultato di impressioni che rimasero in me da sempre, da quando ero piccolo. Nel 43, io avevo, nel 43-44 avevo 7 rispettivamente 8 anni. Cose che le ricordo ancora oggi come fotografate, cose che mi rimasero, insomma, mi sono rimaste impresse. E ho pensato che col passare del tempo mi sarebbe venuta fuori una storia. E allora non c'era questa grande difficoltà, proprio non c'era, proprio se si ha naturalmente un po' di preparazione. Qui si mettono insieme i pezzi come di un mosaico, scrivendo la storia capitolo per capitolo, fino a che hai messo insieme tutti i pezzi del mosaico e viene fuori la figura, come te la vuoi. E ci vuole un po' di pazienza, ma c'è, la materia c'è. Ora ovviamente quando si scrive, nel corso della scrittura, bisogna anche un po' inventare qualcosa, no? Per dargli un corpo al testo, per dargli anche per renderlo interessante, per renderlo magari emozionante e così, e anche qualche aspetto culturale e così. Però la cosa riesce benissimo, non è di nessuna difficoltà scrivere semplice, insomma. E quindi, concludendo, insomma, ci sarebbe da dire tante cose qui, poi oltre che alla vicenda che l'ha un po' illustrata il professore, c'è l'ambiente geografico meraviglioso, la meraviglia della natura, che questa natura che io la guardo sempre in giro e guarda come rimane anche così sempre bella e indifferente anche alle vicende umane, alle tragedie umane che mi succedono tutti i giorni e continuano, dovrebbero smettere. Eppure la natura che è lì come fosse un Dio, che guarda gli uomini come fosse un Dio, no? Perché non cambia mai, è sempre bella, no? Sono gli uomini che sono in difficoltà, gli uomini. Allora, così c'è questa possibilità per gli uomini, attraverso l'arte, è sempre stato detto, l'arte riscatta un po' l'uomo dalle sue cose, si avvicina a Dio, come per dire, l'artista, e crea queste cose. Ed è quello il bello dell'arte, quello di appunto riscattarti da certe cose, perché quando uno le tira fuori, le scrive o le dice, e le dice a fin di bene, e quindi risulta qualcosa di sicuramente positivo, sicuramente edificante. C'è un verso qui di un grande scrittore inglese che si chiama Aldous Huxley, se dico bene, che diceva in inglese "All things that matter happen in the heart", che vuol dire tutte le cose buone, tutte le cose che buone, insomma l'ho tradotto così, vengono dal cuore. Ed ecco così che si aggiunge a una conclusione, diciamo, fortunatamente in questo romanzo non cruenta, perché stava per diventare una tragedia, e sarebbe diventata una tragedia. Lì, beh, non vi dico altro, così non vi toglie la sorpresa. La sorpresa, no? Grazie per l'attenzione. Thank you. un'ultimissima cosa, la dico io, ma veramente in breve, se no vi rompo ancora le scatole. Diciamo, io raccomanderei la lettura di questo libro anche nelle scuole e in varie occasioni, perché noi sappiamo che c'è un altro modo di fare storia e storiografia che in Francia, per esempio, deriva dalla scuola degli Annales, Fèvre, Marc Bloch e Brodel, oggi Leroy Ladurie, eccetera. In Italia Carlo Ginzburg soprattutto l'ha portata, ed è quella di studiare la storia non solo cronologicamente e diacronicamente, quindi per date, grandi avvenimenti, ma anche appunto attraverso la microstoria, le piccole storie. E qui ecco uno spaccato di, diciamo, piccola, ma non bassa, piccola storia trentina o di montagna, diciamo meglio, più in generale, durante l'ultimo periodo dell'ultimo conflitto mondiale, è assolutamente espresso. Quindi ne abbiamo, mi sembra, adesso non ricordo, ma credo di aver detto, ecco, citando peraltro purtroppo una cosa non mia, ci sono, si dice, tranches de vie, no? Cioè pezzi di vita, però c'era qualcuno che diceva sono meglio i tranches de tarte, i pezzi di torta, no? Quindi e qui ci sono anche i pezzi di torta. Ah, ci sono dei pezzi. Questo, tra l'altro anche letteralmente, non solo metaforicamente. Cercato di farlo. Bravo, grazie, ti saluto. Veramente bravo anche la presentazione. Ci vediamo. È stato. Posso pagare? No, guarda, a te te la posso. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao, ve lascio, ci sentiamo. Salute. Bene, io ringrazio i partecipanti e vi aspettiamo anche per le prossime occasioni. Grazie. Arrivederci, scusate. Chiudiamo qui.